noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sorteggio, diciamo, normale, perché nelle coppe europee non abbiamo mai affrontato Tottenham, perciò sarà per la prima volta. Poi ovviamente sappiamo che abbiamo affrontato loro nei amichevole estiva, abbiamo perso, però sapete, si rigiocherà fra due mesi, vediamo come andrà. Per quello che c'era, alla fine è andato abbastanza bene, però come diceva Alessio prima, non bisogna sottovalutare assolutissimamente lo Shakhtar, perché è una squadra forte, forte fisicamente, tecnicamente, poi soprattutto in casa loro giocano molto molto bene, perciò sarà una partita apertissima e, come abbiamo sempre detto, più va avanti e più è difficile. Un lunedì dai mille colori, non solo quelli del campionato, che ieri sono stati in grizz, in chiaroscuro, con la giornata degli 0-0 che nulla ha cambiato in classifica, ma è una giornata dai mille colori per i sorteggi delle coppe europee che abbiamo appena vissuto, Champions League ed Europa League. Gianmarco Ferronati in regia, Giorgio De Luca il nostro autore, guest star, i ragazzi del Master del Sole 24 Ore che ci hanno aiutato a costruire questo programma, quindi se non vi piace pigliatevela con loro. Ciao Pardo. Ciao, come va? Bene, poi uso i ragazzi biecamente per fare uno spot per il nostro programma, lo dichiaro. Jingle natalizio. Professor Condò. Eccolo qui, buongiorno a tutti. Buongiorno. Soprattutto ai ragazzi. Soprattutto ai ragazzi, naturalmente, sempre. Juventus. E ancora di più le ragazze. Ma e a me no. E a noi no. E a me a Pardo. Non vi voglio neanche vedere. Un Condò frizzante. Juventus, allora. Tottenham, Juventus Tottenham, Shakhtar Roma, e poi soprattutto io sto già godendo, sono già eccitatissimo per Real Madrid, Paris Saint Germain e Chelsea Barcellona, perché poi il resto, Porto Liverpool, Siviglia United, continuo a pensare che lo United arriverà avanti in questa manifestazione, più che ovviamente il campionato inglese è già finito, Bayern Besiktas, e poi in Europa League, sorteggi che Paolo Condò ha appena commentato, l'Atalanta pesca Borussia Dortmund che ha appena licenziato l'allenatore, la Lazio lo Steaua Lazio, al Milan è andata bene, Ludogorets Milan, il Napoli, cui continua a girare abbastanza di sfiga, ha preso il Lipsia, secondo nel campionato tedesco. Allora, un giudizio generale, sono tutte partite possibili, anche quelle dell'Atalanta. Tutte quelle dell'italiano. Ci sono tutte possibili, il che non vuol dire naturalmente che siano facili né che siamo dovunque favoriti, però sono delle partite possibili, nel senso che se fosse uscita, cioè non è uscito un Real Madrid che poteva uscire per la Roma, non è uscito un Manchester City che poteva uscire per la Juventus, i veri spauracchi sono rimasti al loro posto, addirittura si affrontano tra loro, come nel caso di Real Madrid e Paris Saint-Germain. Ora il Tottenham c'ha, per cominciare dalla Juventus, il Tottenham lì davanti c'è un triangolo delle Bermude, perché Eriksen, Alli e Kane è veramente, rischi di perderti in mezzo alla classe di quei tre giocatori, però dall'altra parte la Juve può far male. Breaking news. Aggiornamenti sull'esplosione a New York. Ci sono feriti per l'esplosione avvenuta, come avete già sentito nella nostra precedente breaking news, a Port Authority, la stazione dei bus di Manhattan, poco lontana da Times Square, nel cuore dunque di New York City. L'ordigno sarebbe parzialmente esploso e ora si cercano altri possibili ordigni. Una persona sarebbe già stata fermata, mentre tre linee della metro, la A, la C e la E, sono state evacuate, a quanto conferma la polizia. Tutti gli aggiornamenti nelle nostre breaking news e poi nel GR. forza di Radio 24, signori, nelle buone come nelle cattive notizie, in quelle preoccupanti. Siamo sempre qui e vi teniamo aggiornati su tutto. Adesso stiamo parlando di calcio. Ringrazio la collega Raffaella Calandra, ovviamente keep in touch per sapere tutto quanto sta succedendo nel mondo. Allora, c'è chi mi scrive, Pierluigi. C'è, sì. c'è chi mi scrive: lo sapevo che Carlo si ingrifava per Paris Saint Germain Real. E chi non si ingrifa, scusami. Abbi pazienza. Una persona normale da questo punto di vista, è normale che si ingrifi per Real Madrid Paris Saint Germain. No, sul Tottenham io credo una cosa: che sicuramente è una squadra di grandissimo valore. Sì. È una di quelle squadre che ancora dal punto di vista della legittimazione internazionale, della forza internazionale, devono dimostrare qualcosa. Mm. E non è un dettaglio, perché sappiamo che in Europa, soprattutto da febbraio in poi, conta molto il pedigree, ma non quello storico, è quello recente. Certo, quindi hanno una generazione interessantissima di giocatori. Il triangolo delle Bermude, sono d'accordissimo, è pericolosissimo, però penso anche che sia una squadra comunque rispetto ad altre che si lascia preferire, proprio perché ha una ancora deve dimostrare delle cose, diciamo. Beh, quindi chiaro, io penso che chiaro. Non a caso c'è un tweet di Allegri che mi sembra insomma molto onesto, dicendo sarà una grande partita, una squadra giovane e piena di talento, ma insomma se la Juve farà la Juve passerà il turno. Secondo me è così, se la Juve farà la Juve passerà il turno. Allora, io per aggiungere altri elementi di discussione, vi faccio sentire cosa ha detto Nedved a proposito del discorso di Allegri. Beh, in finale, ragazzi, arriviamoci, poi ce la possiamo anche giocare. Questo è il concetto, Nedved. Ci firmerei, arrivassimo ogni anno in finale, poi vada come vada, però io credo che arrivarci in finale di competizione europea è sempre molto difficile. E la Juve è arrivata due volte negli ultimi tre anni in finale di Champions League. È una cosa che non capita a tutti. Ecco, questo Pavel Nedved. Francesco Totti invece è sempre presente al sorteggio di oggi, Shakhtar Roma. La Roma si è meritata la sua fortuna facendo un girone meraviglioso. Però Totti dice una cosa molto interessante, e cioè non è questo il nostro reale obiettivo. Diciamoci la verità, il campionato per noi è più importante, è l'obiettivo principale, diciamo, come tutti gli altri obiettivi, però riferendosi alla Champions sappiamo che andando avanti incontriamo squadre più competitive, più forti della Roma, questa è la realtà dei fatti, non bisogna nasconderci. Poi il calcio è bello per questo, è di riserva tante sorprese, noi cercheremo di mettere in difficoltà qualsiasi squadra dovessimo incontrare. Allora, io vorrei un commento di Paolo Condò su queste dichiarazioni. Nedved, ormai da dirigente scafato, dice una cosa sacrosanta. Totti, forse un po' ingenuamente, dice: va bene, la Champions League, però ci interessa qualcos'altro. Sì, è più sincero, diciamo, meno diplomatico. No, detto che ovviamente ha ragione Nedved, però è un po' l'acqua calda quella che ha detto. Chiaro che è meglio arrivare in finale che non arrivarci. Totti dice una cosa, anche secondo me, un po' ingenua, come dicevi tu, perché poi in realtà la cosa importante è arrivare ai quarti di finale ed entrambe hanno le possibilità di arrivarci. La Juventus per me è favorita 60-40, la Roma è 50-50, forse 51-49 per la Roma. Una volta che tu arrivi ai quarti di finale, secondo me tutte le otto squadre hanno la loro porzione di possibilità, che poi ovvio c'è chi ha il 30% e c'è chi ha il 5%, non è che siano uguali, no, chiaro, però una volta arrivato ai quarti di finale sei in ballo e devi ballare. Ascolta Paolo, prima del traffico, poi ti tengo ancora un minuto dopo il traffico per le faccende di casa nostra, cioè il campionato, però quando hai visto uscire dall'urna l'Ipsia per il Napoli, hai guardato le stelle, perché in questo momento dice tutto male al Napoli, compreso un sorteggio di Europa League. Sì, però stiamo parlando di qualcosa che succederà fra due mesi. E appunto, ma tra due mesi vediamo dove è messo il Napoli in campionato. Fra due mesi, secondo me, molte cose saranno cambiate. Io penso e spero che il mercato avrà portato qualche cosa a Sarri, perché ne ha un estremo bisogno. Sai, nel momento in cui tu fai giocare Zielinski, cioè un centrocampista molto bravo, ma un centrocampista, lì e lasci in panchina Giaccherini, certifichi il fatto, che è una tua opinione ma certificata, che Giaccherini non può più giocare, sì, praticamente, è la certificazione. E quindi è evidente che tu lo devi sostituire in qualche modo. certo, certo, non, dire, non puoi più contare su di lui, perché nel momento in cui gli togli ogni cioè, lo depotenzi in questo modo, a quel punto lì su questo cioè, giocatore neanche fossi manca piuttosto Milica, giochi in 1-10, manca Insigne e continua a non avere, perché almeno un as è stato battezzato giocatore da 20 minuti, 25 minuti, e lui in quei 20-25 minuti però li fa. Certo, ecco, Giaccherini è fuori da ogni rotazione. Fuori da ogni rotazione. Vi chiedo un secondo di pazienza. Traffico, torniamo subito. Facciamo con Paolo Condò e con Pierluigi Parlo, naturalmente, che poi rimarrà con noi. Due battute sulla giornata degli 0-0, che nulla ha cambiato in testa della classifica, aspettando la Lazio. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Quanto al campionato, mentre convoco tutti quanti, todo il mondo, 800240024 per parlare con noi, chiedo un commento per Luigi Pardo e Paolo Condò su questa giornata degli 0-0, che dicevo nulla ha cambiato in testa alla classifica. Mi ho una sensazione: se la Juventus avesse, è inutile usare condizionali, però è così, vinto quella partita con l'Inter, credo si sarebbero ribaltate diverse gerarchie. La Juventus sarebbe tornata ad essere probabilmente la principale candidata, se ancora non lo è, Pier. Sì, certo, però è pure vero che un campionato così incerto, questo vale per tutto. Se il Napoli avesse pareggiato con la Juve, le gerarchie sarebbero diverse. Se la Roma la seconda giornata avesse vinto con l'Inter, le gerarchie sarebbero diverse. È vero, sicuramente. Insomma, la Juve l'altro giorno ha dimostrato in una partita in casa di fare di più dell'Inter. Ha sferrato il gol in 3-4 circostanze. L'Inter ha fatto una discreta partita, anzi una buona partita difensiva e una discreta partita in assoluto, confermando una solidità di un certo tipo, che è comunque è un dato, dimostrando di avere ancora dal punto di vista del gioco tanti margini di miglioramento. Cioè, non è ancora una squadra assolutamente dominatrice, però intanto secondo me l'Inter ha portato a casa un risultato assolutamente d'oro, assolutamente per il calendario, per gli scontri diretti in casa al ritorno, insomma squadra che non molla e non mollerà tanto facilmente. Paolo Condò, però quanto tempo che non ci divertivamo così. Stasera aspettiamo la Lazio, se la Lazio batte come io penso possibile il Torino, ne abbiamo davvero 5 in un francobollo di spazio. Lazio, c'è anche Lazio Udinese. E l'altra partita che manca e la trovi lì affiancata alla Juventus, se non sbaglio, quota 38. Sì, esatto. Ecco, e quindi è un campionato a 5. Io non cado nella tua trappola, caro Carlo, del chi è la favorita questa settimana, perché praticamente cambia ogni settimana la favorita a seconda di come vanno i risultati della domenica. Diciamo questo, che per il momento noi abbiamo la grande novità di questo primo scorcio di campionato, è che alle due squadre che noi ritenevamo abilitate a vincere lo scudetto, e cioè la Juventus e il Napoli, se ne è aggiunta una terza, che è l'Inter. L'Inter è abilitato, lo ha definitivamente dimostrato. Sì. Questo non vuol dire che lo vincerà. No, no, però sta lì. È abilitata a questo punto, non mi sorprendo. Si è guadagnata la wild card. Il campionato. Ecco, sto aspettando adesso, andando in ordine di apparizione, sto aspettando che la Roma mi dia ancora questa certezza, è vicina a darmela. Probabilmente se avesse vinto a Verona ieri sarebbe stata un ulteriore tassello, un'ulteriore prova, però anche in maniera rocambolesca, perché Sorrentino ha parato quello che non parava neanche Yashin. Esatto, la tenuta a un punto solo. Ecco, però la realtà è che questo è un campionato equilibratissimo. E a volte non bellissimo. Quest'ultima giornata non è stato bello. Ma poi intendiamoci un concetto di bello, Paolo, perché non mi fa arrabbiare anche te. Cos'è bello e cosa no? Non ti faccio arrabbiare, però il fatto è che tutti gli altri campionati c'è una squadra che ha 10 o 8 punti di vantaggio. E questo non è bello. Ed è chiaro che a quel punto gli scontri diretti li affronti in un altro modo, perché hai un solo risultato a disposizione. Certo, qui certo. Invece il fatto che vinca sempre la squadra in trasferta o al limite pareggi è pazzesco, se ci vai a vedere quello che è successo in questo girone d'andata. E la chiara dimostrazione è che appena uno si scopre un po', vedi il Napoli con la Juventus, è fregato. Viene infilato. Esatto. Ciao Paolo. E c'è un effetto collaterale, scusami, non so se Paolo vorrebbe andare con noi, che è nella dichiarazione di Totti, che è sì, un po' ingenua sicuramente, molto sincera, ma sì, è secondo me non voglio dire pericolosa, perché hai dato, ognuno fa quello che fa, la parafrasi, la Roma ci crede. No, no, ma è ovvio, è chiaro, ma è giusto che la Roma ci creda, ma insomma, quest'anno la lotta a scudetto è talmente aperta che fa sì che la Champions League sembri un punto lontano. Certo. E quindi una bella gita in Europa, ed è un po', ripeto, un po' pericoloso ragionare così, secondo me, tanto non accadrà, l'ha dimostrato il modo in cui la Roma ha passato il girone al primo posto, però credo che questo tipo di ragionamento l'abbia fatto il Napoli inconsciamente, uh-huh, e ne abbiamo parlato tanto, uh-huh, e probabilmente lo potrà cominciare a fare anche la Roma, e forse lo farà anche la Lazio se ovviamente sì, credo anch'io, dovesse continuare così rispetto alla pur rispettabile Europa League. Quindi, quando arriviamo a marzo si capirà. Perché talmente incerto che ti porta in certi momenti anche a togliere priorità a delle competizioni, chiaro, facenti, chiaro, soprattutto, chiaro, che hanno un fascino incredibile. Si fa due conti. Paolo, ti ringrazio, starei ore e ore a parlare con te. Ciao, grazie. Ciao. Però come sapete corriamo sempre. Filippo Mariaricci dalla Spagna. Buon pomeriggio. Buono, altro che. Io sono ingrifatissimo per quello che ci ha disegnato il sorteggio di oggi, perché Real Madrid Paris Saint Germain è il massimo della vita, già sogno sì, quelle due partite, e poi Conte contro il Barcellona, mica male. Se Don Antonio finisce fuori un'altra volta agli ottavi, non stringe nulla in campionato, poi parliamone, andiamo a parlare con la signora sì, con Chelsea. Marina con la signora Marina, esatto. Ma, sì, la signora Marina non sarà felice, però è complicato. Guarda, c'è in ballo, io la prima cosa che ho pensato, le spagnole, no? Sono 4 anni che arrivano in finale, le spagnole e la Juve, no? Non sono arrivate altre squadre. L'Atletico è già andato via, e adesso per la Spagna è un grandissimo test. Vediamo come siamo messi da queste parti, perché comunque l'altra partita poi c'è Siviglia Manchester United, per cui si potrebbe anche ipotizzare un filotto di eliminazione, finale, sì, senza spagnole, sarebbe clamoroso dopo un dominio, no, di 4 anni. E al netto di questo restano 2 partite spettacolari, cioè 4, poi però dico 2 sfide spettacolari. Senti, ma facciamo un pronosticone molto alla lontana, vai, impossibile, vai, è solo un gioco, sì, ma dai, chi passa tra Real e Paris Saint Germain, cioè una delle due squadre insieme al City che ha massacrato l'Europa del calcio in questa prima fase, il Real? Per me sì, chiaramente 50-50, però se mi devo sbilanciare mi prendo sempre il Real. Se passa questo giro vanno dritti in finale, posso dire? Ma no, ma che vuol dire? Ragazzi. No, quello non vuol dire, però anch'io prendo il Real Madrid. Poi 45 minuti. E tra Chelsea e Barça chi pigliate, ragazzi? Barcellona. Anch'io. Siviglia, Manchester United. Sì, spero tanto nelle due italiane. Secondo me sono tutte e due. Porto Liverpool, il Liverpool più o meno? No, 55% alla Juve, 51% alla Roma. E forse anche il 60% alla Juve. La Juve il 60%. Tottenham continuo a non vedere sto Pochettino, che piace tanto anche a Florentino, che fa anche rima. Io continuo a non vederlo come un fenomeno. Vedremo. Per me la Juventus è superiore. Bayern Besiktas. Porto Liverpool. Bayern Besiktas 90-10, no, 80-20, dai. Ma sì, dai. E 90-10 poi... Basilea e no, Basilea. No, poi ragazzi, abbiamo parlato per anni del cul-de-sac, tra un po' cominceremo a parlare del cul-de-Guardiol. Del cul de Pep. Abbiate pazienza. Già siete forti, poi andate a pescare la più scarsa di tutta la giostra. Meglio di così si muore, Gli dice proprio bene. No, e poi soprattutto perché due grandi se ne stanno a casa. Cioè, vuol dire, se anche vanno fuori Paris Saint-Germain e Chelsea o Real Madrid e Barcellona, vuol dire, ti sei tolto di mezzo due rivali importanti, Ho uscito subito il Basilea, che ha visto il sorteggio, sa benissimo che la Roma, che aveva una situazione di partenza molto buona, perché aveva 4 su 6 giocabili, diciamo, si è trovato a un certo punto in una situazione drammatica, perché è rimasto veramente solo lo Shakhtar, che in assoluto non è secondo me il miglior sorteggio possibile. Beh, però a febbraio, dai, teniamo conto che finale a Kiev, no? Quindi magari ci tengono, finale in casa per loro. Non lo so, però. Beh, ragazzi, prima di salutare Filippo, che dato che lo conosce bene, ma ieri derby di Manchester con Far West finale, come lo vedete, con latte bottiglie che volano nello spogliatoio, Mourinho che si accapiglia con Ederson, portiere del City. Non potete trattarci così, poco rispetto. Arteta ferito, insomma, Far West totale mondiale. Indovinate chi è chi è che ha innescato la scintilla, eh? Allora, la cosa è: meno si parla di calcio, meglio è per il nostro signore portoghese. Questo per me è la chiave di lettura. Perché anche se per si parla di calcio, c'è un problema. E allora meglio far casino. Io la leggo così. Poi dopo, magari qualcuno penserà che sono più per Guardiola. A me in realtà sono abbastanza neutrale. Mourinho mi sta anche simpatico. Però la partita di ieri, a me la cosa che più mi è piaciuta è quando ha detto che ha definito vergognosi i gol del City. Dice: se giochi contro il City aspetti che facciano dei bei gol, e invece hanno fatto due gol vergognosi, non lamentandosi della sua difesa e soprattutto di Lukaku, no? Però dice: no, non va bene, non possono segnare quei due gol brutti. Ma sai, a Milano dicono, non so se sono a Milano, qui diciamo ti conosco mascherina, abbiamo imparato a conoscerlo un pochino, Giuseppe. Va bene, fa tutto parte del gioco, dai. Anni fa c'era stato il Pizzagate, no? Quando Fabregas gli aveva tirato la pizza in faccia a Sir Alex e lo ha messo solo quest'inverno. Adesso abbiamo il latte, le bottiglie, sì, l'acqua. Era volata anche della, correggimi se sbaglio Pierluigi, della zuppa di piselli tra Ferguson e Arsène Wenger. Certo che dopo partite in Inghilterra sono imperdibili, Pierluigi, a noi che piace quella roba volta, lì. Qualche volta anche il pre-partita di Arsenal Manchester United vecchio Ivory. No, ma io sono d'accordo con Filippo. Tra l'altro avrei preferito chiaramente una vittoria dello United che avrebbe riaperto il campionato, che invece adesso è praticamente sepolto. Però sicuramente, cioè, Mourinho nelle sue infinite armi ha soprattutto quelle extra calcistiche, che non vuol dire che non sia un bravo allenatore, è un bravissimo allenatore, però è evidente che spesso va un po' in difficoltà, e quando va in difficoltà è uno di quelli che prova a mescolare, che prova un po' a manipolare, che prova a buttarla in caciara, come diciamo questo sì invece a Roma, a buttarla un po' in caciara. E la verità è che il City è più forte, nettamente più forte, l'ha dimostrato anche ieri. Io invece dico: è il genio dei mind games, tu lo sai, il genio dei giochi mentali. Qualche volta non gli vengono mai sì, però i mind games dopo che hai perso c'è poco da fare mind games, Carlo. I mind games li devi fare prima, se li fai dopo ho capito, cioè, dopo che hai perso lui è abituato a farli sia prima che dopo. A pensare che lo United sia una squadra da Europa più che da fronte interno, e mi aspetto che faccia strada anche in Europa al di là del Siviglia. A lui qualche magia è riuscita. Io penso che dal punto di vista del rapporto fra il valore della squadra e quello che è riuscito a fare, l'Inter del triplete sia il risultato più grande che ha ottenuto, perché era una squadra fortissima, per carità, però quello fu veramente un risultato paradisiaco ottenuto, attingendo in maniera molto significativa a quest'arte della fascinazione, io ho raccontato mille volte che quel periodo lì stavo curando l'autobiografia di Eto'o. Insomma, Eto'o, che era uno che aveva vissuto esperienze incredibili nella sua carriera, però era sinceramente intimamente innamorato. Ma certo, e certo, era stato sedotto. Ti ruba questo è uno che ti ruba il cuore. I giocatori per te si buttano nel fuoco perché sanno che tu li proteggerai da tutti e da tutto, usando te stesso come parafulmine. Ormai è una strategia che conosciamo bene. Filippo, grazie, a presto. A voi, ciao. Ci fermiamo, borsa, torniamo. 800 24 00 24, tutti convocati. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Breaking news. Ora c'è anche la conferma ufficiale della polizia, c'è stato un fermo per l'esplosione a Port Authority, il più grande terminal dei boss degli Stati Uniti tra la 42esima e l'ottava Avenue. Il potenziale attentatore suicida aveva addosso un giubbotto esplosivo che sarebbe però detonato prima del tempo, a quanto confermano i media locali citando testimoni tra gli inquirenti. L'esplosione è stata avvertita alle 7.45, ossia nell'ora di punta. Siamo nel cuore di Manhattan, poco lontano da Times Square, dove sono state evacuate 3 linee della metro, la A, la C e la E. Si cercano ancora altri possibili ordigni, mentre il sospettato è stato portato all'ospedale di Bellevue. Si tratterebbe di un ordigno artigianale, una bomba tubo. Tutti gli altri aggiornamenti alle 15. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Queste partite, quando non fai gol nei grandi scontri diretti, alla fine magari un contropiede rischi di perderla, e dopo il risultato di Napoli non potevamo permetterci assolutamente di perdere questa partita. Ce lo siamo portato a casa lo scenario di questa nottata qui, di questa notte, di questa visibilità qui che c'era durante questa partita, per cui non vedo perché poi in alcuni momenti ci si debba andare con il braccino a fare le cose. Non possiamo sempre aspettare solo i gol di Edin, sicuramente qualche gol in suo ce l'aspettiamo, ma sono convinto che alla lunga arriveranno. Contentissimo del fatto di avere grandissimo equilibrio, concedere al di là proprio dei gol subiti, anche concedere poco agli avversari, però obiettivamente qualche gol manca. Il mio sentimento è sollevato dopo questa partita, perché ho visto la squadra ritrovare determinazione, grande voglia, intensità, ritmo, e a differenza delle ultime due partite abbiamo ritrovato anche un numero di palle gol abbastanza elevato. Con buona pace degli esteti, col cavolo che un weekend da 0-0 lascia pochi temi sul tappeto, ne lascia un sacco. Io e Pierluigi Pardo salutiamo Francesco Guidolin. Ciao Carlo, ciao Pierluigi, buongiorno a voi. Ciao mister. Allora, noi avremmo alcune domande per te, non 3 come Ligabue, ma 4 almeno, io credo. Poi Pierluigi dice quello che voglio. Io voglio partire da questo. Condividi chi accusa Spalletti di aver fatto catenaccio a Torino? No, perché sicuramente non era nelle sue intenzioni, perché sono convinto che lui stia costruendo soprattutto la mentalità di una squadra che non è ancora una grande squadra, è un'ottima squadra, lotterà fino alla fine, sono sicuro, però lui la vuole trasformare in una grande squadra come mentalità, quindi lui si sarebbe aspettato qualcosa di più dalla sua squadra probabilmente sotto questo punto di vista, quindi non ci sta la critica nei suoi confronti, insomma. Poi aveva di fronte una Juventus che, quando ha accelerato, ha fatto un quarto d'ora, 20 minuti, sì, pazzeschi, da grande squadra. Pazzeschi, sì. Pierluigi? No, io sì, volevo appunto capire chi esce meglio da questa partita, nel senso che poi ci sono varie scuole di pensiero. Da un lato l'Inter gongola ovviamente per un risultato positivo, dall'altro la Juve dà la sensazione di aver fatto qualcosa di più, anche se poi nelle dichiarazioni post partita mi sembra che Allegri abbia candidamente confessato di non avere ancora la squadra che vorrebbe, ancora un po' in ritardo di condizione. Quindi chi esce meglio? Ma secondo me escono bene entrambe, perché la Juventus ha dato una bella risposta, comunque meritava qualcosa in più indubbiamente, ma l'Inter ha dimostrato una grande solidità e, ripeto, è ancora un cantiere secondo me l'Inter, perché rimettere dentro la mentalità vincente, la mentalità del grande club, la mentalità della grande squadra non è semplice, è il lavoro più difficile che deve fare Luciano, e quindi può uscire sicuramente soddisfatto, perché il risultato è comunque un risultato positivo, ma lui per primo sa che questa squadra deve e può dare di più. E ci sta riuscendo benissimo, tanto che l'abbiamo inserita a pieno titolo, tra, anche con Paolo Condò prima, tra le candidate Juventus, Inter e Napoli con la Roma che sta studiando da apprendista stregone ancora, serie pretendenti al titolo. A proposito di Roma, oggi Di Francesco viene accusato di quel turnover molto estremo che ha fatto ieri con il Chievo. Francesco, beh, ma l'allenatore ha in mano il polso della situazione, se no non sarebbe l'allenatore, non sarebbe quello che decide, quello che si prende tutte le responsabilità. Quindi se ha fatto questa scelta vuol dire che la squadra aveva bisogno di questo tipo di rotazione. Secondo me poi le rotazioni il beneficio delle rotazioni te lo ritrovi a marzo-aprile, quando veramente conta e quando veramente la stanchezza si fa sentire sui muscoli dei giocatori. Quindi io approvo. Approvi. Sono un sostenitore del turnover. No, ma quello anch'io, però così estremo mi è sembrato tanta roba, con Schick che praticamente non ha mai giocato, no? Ma non era estremo, ragazzi, non era estremo, ha dato una possibilità a Schick ed era ora. Sì, poteva dargliela col Cagliari. Appunto, col Cagliari in casa forse era più morbida, capito, no? Però mai. Sì, forse era più morbida. No, la Roma ha prodotto tante occasioni, Sorrentino stava il migliore in campo, cioè. Veramente non bisogna essere troppo schiavi del risultato, se no bisogna essere, bisogna vedere anche che cosa c'è dietro una partita. Allora, le palle gol sono un dato oggettivo, la Roma ne ha avute tante, quando Dzeko è entrato ne ha avuta una clamorosa, non l'ha sfruttata, cioè se non manca la controprova e con Dzeko dal primo minuto la Roma avrebbe vinto. Per cui sono d'accordo con Guidolin, cioè devi vedere nel complesso la conduzione di un lavoro. No, mi sembra che ad oggi la Roma l'abbia portata avanti molto bene grazie al turnover. Sì, no, questo è chiaro, però c'è anche l'altro fronte, che è quello del pareggi, sono d'accordo, Pier. Ovviamente mi alzo i piedi davanti a quanto dice un Guidolin, perché lui è un grande allenatore, io no. Non è che ha giocato male la Roma, capito? E non è neanche che non ha tirato in porta, ha tirato in porta mille volte, ha trovato un fenomeno. Insomma, secondo me prendersela con Di Francesco è un po' ingeneroso in una partita così. Poi se la Roma avesse giocato invece male, avesse prodotto poco, avesse tirato male, allora andrei un altro discorso. No, è chiaro. Non è questo il caso. Ecco, l'ultima cosa che voglio chiedere a Francesco Guidolin invece riguarda l'altro accusato di poco turnover, che come sappiamo è Sarri. Prima ne parlavamo con Paolo Condò, che dice: ok, ieri hai fatto fuori Giaccherini perché i giocatori devi tenere coinvolti nelle rotazioni, altrimenti li perdi. Sarri ne ha persi un po' per strada, poi ieri ha detto invece di aver ritrovato il Napoli. Possiamo concordare, mister? In certi momenti ho visto il Napoli dei momenti proprio scintillante, ma mi sembra abbastanza chiaro che è un momento di flessione, ma che ci sta, che stanno vivendo un momento fisica, in cui magari le gambe non girano. Fisica, mister. Ah sì, che le gambe non girano a mille come 20 giorni fa, ma questo ci sta. E per quello che riguarda invece le soluzioni, i cambi, cioè io non so, beh, Zielinski può giocare in quel ruolo perché con me giocava anche in quel ruolo, poi è diventato con Sarri, quando è andato ad Empoli si è specializzato, diciamo così, a fare anche la mezzala, ma Zielinski è un trequartista, quindi può giocare da attaccante. Non ha grandi soluzioni, grandi ricambi indubbiamente il Napoli davanti, perché se si fa male qualcuno di quei tre, e in questo momento è fuori Insigne, le soluzioni non sono tantissime. In più hanno anche loro, devono anche loro giocare ogni tre giorni, e quindi non è semplice. Non dimentichiamo, scusate, apro una piccola parentesi, so che certo. non lo fate, ma non dimentichiamoci della Lazio. No, non lo facciamo mai. 3-5-1-1, quasi 3-6-1, che a me piace moltissimo e mi ricorda la mia Udinese. Mi fa pensare a una squadra che non dà nessun punto di riferimento, che gioca bene, che arriva a fari spenti o quasi spenti, perché ormai se ne sono accorti tutti, e sta facendo benissimo. Ma guarda, mister, io e Pardo siamo innocenti su questo fronte, perché della Lazio, insomma, siamo innamorati Lazio ormai dall'anno scorso, quindi ci guardiamo bene da sottovalutarla. Ulteriormente sorprendendo, perché quest'anno c'è l'Europa League, comunque la rosa non è particolarmente profonda, e quindi poteva esserci qualche difficoltà, invece la sta gestendo benissimo. Inzaghi super, e vedere giocare la Lazio per me è una meraviglia. Grazie mister, alla prossima. Grazie a voi. Ciao Francesco Guidolin, grazie davvero, ciao. Ci fermiamo per il traffico 800240024, se volete intervenire siamo qua. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. De Bruyne, il gol del City con David Silva per il vantaggio al 42esimo. In mischia il più piccolino di tutti, il capitano. Maybe I don't really wanna know. Tutti a vuoto, c'è Rashford, 1-1. Silva, Lukaku, non riesce a liberare Otamendi. Goffissimo Lukaku nel cercare di liberare, e Otamendi invece straordinario in acrobazia riporta in vantaggio il Manchester City. Sono 11 punti, anche una, in un campionato come questo ultra competitivo dove tutte le squadre sono forti e lottano per i punti, però 11 punti sono punti importanti, una distanza importante. Mentre gli Oasis li dedico a mio fratello Pardo, i fratelli Gallagher che festeggiano, io avrei messo i Sex Pistols per Total Brit. Quello che avete sentito è ovviamente José Mourinho, che ieri Alessandro Alciato per Sky ha intervistato nel dopopartita. Però io da Alessandro, ciao Ale. Ciao, buongiorno. Io da te voglio sapere, dato che sono un curioso, che cos'è successo in quel dopopartita, che cosa hai visto? Visto poco, ho sentito il Far West, ovviamente mi hanno raccontato il Far West dopo pochi minuti, tutti contro tutti, calci, pugni. Oggi ho letto qualche giornale inglese che parlava di latte versato addosso a Mourinho, ma a me sembra una barzelletta, perché mi sembra sia successo molto di più rispetto al latte versato. Noi, per non piangere sul latte versato, come si dice, però era... C'era già tensione, ad esempio Delph durante la partita, tutte le volte che passava davanti alla panchina di José Mourinho gli diceva qualcosina, anzi lo insultava proprio, Mourinho si innervosiva, poi lui e Guardiola in realtà si sono abbracciati anche un paio di volte durante la partita, ma sono quegli abbracci finti, no? Che devi fare magari quando ci sono le telecamere, però dopo davvero è successo di tutto, anche perché all'Old Trafford gli spogliatoi sono vicini, quelli delle due squadre. Il tunnel è unico, non è come in qualche stadio che a un certo punto ci sono due tunnel diversi e in ciascuno c'è uno spogliatoio di una squadra. Lì insomma si passa nello stesso tunnel, e insomma passare nello stesso tunnel dopo un derby come quello di ieri, che valeva la Premier, a qualcosa porta. Ieri ha portato al Far West. Tu che cosa dici? No, beh, Guardiola Mourinho insomma è un grande classico della letteratura erotica calcistica, Pierluigi. Sì, ma sicuramente, ma insomma è una dimostrazione del fatto che il calcio poi ha degli aspetti umani, che nonostante i soldi, nonostante il fair play, nonostante tutto quello che possiamo dirci, anche un po' la plastica che c'è a volte attorno a questo mondo, qualche volta quando parte la vena è bello. Quindi, così, dai. Sì, è bello così, poi insomma, non è che bisogna fare cazzotti per forza, no, esatto, non stiamo incrociando la violenza, però è una cosa che è successa, ed è insomma, in qualche modo la dimostrazione del fatto che quando poi sei in campo lì non è che pensi alla macchina o alle donne, esatto, o al prossimo contratto, pensi a vincere le partite, quindi è ancora fortunatamente meravigliosamente pallone. Ecco, allora Alessandro Giotto, prima di salutarlo, che ha da fare parecchio, voglio coinvolgere non essere timido, fallo un'intervista. A proposito di quello che si diceva prima a proposito di Mourinho, no? Che è uno che si fa molto amare dai suoi giocatori, devo dire che è una bellissima intervista di Alessandro Giotto a Zlatan. C'è un passaggio su Ancelotti che secondo me è illuminante, ed è esattamente quello appunto quando lui dice: è impossibile che Zlatan è rimasto sorpreso da quello che è successo al Bayern quest'anno, perché se c'è una cosa indiscutibile di Ancelotti è proprio il fatto che non gli si possa voler bene. Questo passaggio mi ha colpito molto. E per Mourinho credo valga la stessa cosa, cioè quell'empatia che si crea. Con strategie diverse. Certo, in modo totalmente diverso, quasi opposto, però sono due cui non... Se sei un giocatore vuoi bene, no Ale? Sì, cambia il modus operandi, è assolutamente opposto, però il risultato è quello. Sì, a Mourinho Ibrahimovic vuole bene, in generale i giocatori che hanno avuto Mourinho lo rimpiangono, stessa cosa per Ancelotti, a parte quelli del Bayern Monaco, però ad esempio anche qualcuno del Real Madrid non rimpiange Mourinho. Diciamo che magari in una squadra da questo punto di vista hanno fallito tutti e due, ma la carriera parla per loro, soprattutto parlano per loro i giocatori che hanno avuto. Ibrahimovic non è uno del complimento facile, eppure no. Di Ancelotti ha detto quello che ci ricordava adesso Pierre, di Mu ha detto quando prendi lui prendi tutto il pacchetto completo, però è un gran bel pacchetto, cioè è detto da uno, ripeto, che non fa complimenti neanche ai familiari, spero. No, quindi... no, se li risparmio, se li tieni in tasca. Sono pazzo libero dopo l'intervista di ieri, tu. Veramente. Ah, solo tu, solo tu. E io infatti invidio un casino al chat che fa queste grandi interviste. Io intervisto Pierluigi Pardo, che è una grande intervista, la faccio tutti i giorni, ma ciao Ale. Intervisto Giovanotti, dai, abbastanza bene. Domani intervisto te, tu mi dici cosa ha detto a Tiki Taka, o magari lo facciamo sentire. Guardaci 23:30. No, vabbè, ok. Quindi... Cacca via Zanetti, c'è un po' di gente. C'è un po' di gente. Il nostro amico Brocchi, grande Cristian. Giuseppe, Giuseppe al volo, che stiamo chiudendo. Dica Giuseppe. Sì, al volo, niente. Buonasera, io avevo delle considerazioni mie e vorrei un po' il vostro parere in merito per quanto riguarda sia il gioco di Sarri, perché io sono milanista quindi non me ne fregherebbe niente, però mi piace il calcio, dico sempre, io ho notato che Sarri ha insegnato al Napoli un solo modo di giocare, palla a terra, palla avanti, palla dietro. Pardo di questo me ne può dare atto. Sì, no, l'ha detto un sacco di volte Pardo, l'ha detto un sacco di volte questa cosa qui, cioè Napoli o è perfetto in se stesso o non riesce ad avere un'altra alternativa. Quest'anno abbiamo salutato con ottimismo tutta la Te sento più che cacciare. Vabbè, tanto dobbiamo chiudere, quindi siamo al gong finale. Tanto ci sentiamo domani, tutti convocati alle 14. Giorgio Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.